forza occulta muove il mio desir, e qui volge possente i passi miei. Voce, che rimiro Pompei del mio bel nome al volto, apritevi pupille a far sereno il tormino di quest'alma amorosa. Saggio, favella, amico, ecco il mio bene, vuol che mi veda in me qui a scosirsilla il mio lume tradito. Lo vedi là, prigioniere? Colpisco il segno! Io soffro, distruggo in questo punto per ritrarla da lassi il regno infame. Angelica, mia bene! Orlando, allarti! Che sì, folle che sì, che ancor ti apprendo a non battar per l'anno stesso in faccia il non tuo nome, il non tuo amor. Orlando, io mi credea, esaminando ben la mia bravura, io mi avvengo che sono il flagello d'Astrea. Orlando era un gran nome, io l'avea preso per comparire in aria di guerriero, ma flagello d'Astrea riempie pure i miei vasti disegni un nome tale. La tirannia, la crudeltà cadranno sotto del suo sferzare, oppresse e dove? Mi disorlando, amico, e ti ringrazio che sino ad or tu m'hai prestato il nome. Ahimè, che vecchio, l'atto paita, tira mano che impugna il brando, non vedi? Anche tu mira, che si fuori d'inferma, chi sa sposarà contro di noi, i frondolenti fermi, mille giri, l'egida di Minerva. Amante te credi, ma che fede che al metà prode, prode, prode.